Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Eccoci qui, immancabile naturalmente. Io vi dico dall'inizio, prima ancora di dirvi perché oggi ancora ci confermiamo che non ci sono più le mezze stagioni, vi ricordo il numero di telefono. Magari state preparando il pranzo di Pasqua, state facendo qualche preparativo, siete a fare gli ultimi ritocchi, le spese eccetera, oppure state lavorando come nel caso mio personale o di altri, insomma quello che state facendo. Il numero verde è sempre lo stesso, 800 24 00 24. E sapete qual è il cuore, insomma, della trasmissione? È quello di commentare insieme, di ritornare sui fatti della settimana, ognuno col proprio punto di vista, con chiavi di interpretazione diverse. Infatti tra poco poi vi presenterò anche l'opinionista estemporaneo di questa settimana. Ma prima di tutto, come consuetudine, mi piace con voi dirci ogni volta in modo nuovo che cos'è che ci conferma appunto che i tempi non sono più quelli di una volta, e quindi non ci sono più le stagioni di una volta. E in questo caso abbiamo perso due record come italiani: quello della pizza, perché uno dice pizza e mandolino, no? Un po' l'immagine dell'Italia così specifica, precipua, ma anche in qualche modo pittoresca, a volte banale. E invece noi non siamo più i maggiori consumatori in Europa di pizza. Chi sono? I nostri amici, nemici, cugini, i francesi. I francesi sono i maggiori consumatori di pizza in Europa. E secondo una statistica appena resa pubblica proprio in questi giorni, oltralpe si consumano oltralpe almeno 10 kg di pizza l'anno pro capite per cittadino, contro i 5, la metà noi italiani, che razza di italiani siamo. E poi invece l'altra cosa per cui abbiamo perso il nostro record è, questo forse è un po' più grave, la longevità. Per quanto riguarda le donne, ancora una volta le francesi vivono più a lungo di noi donne italiane, e per quanto riguarda gli uomini, gli svedesi, insomma, pezzi di svedese, diciamo che se la passano bene anche da questo punto di vista. Abbiamo iniziato quasi con un minuto di anticipo, quindi se siete già all'ascolto vi ricordo che potete esprimere le vostre opinioni, il vostro parere liberamente sui tantissimi fatti anche questa settimana. Sicuramente dominanti sono stati i risultati delle elezioni amministrative, però ci sono anche moltissime altre cose, e tra poco, se volete, magari ve ne faccio anche un elenco. 800 24 0024. Tra pochissimo avremo anche il nostro opinionista estemporaneo. Ecco, mi dicono Carmelo Lauricella, la parte tecnica mi rassicura, c'è l'opinionista estemporaneo, altrimenti andavamo avanti io e voi senza problemi. Ma naturalmente io ve lo presento sempre con grande orgoglio. Signore e signori, opinionista estemporaneo di oggi è... Edoardo Narduzzi. Ti sei perso in Baviera, Edoardo? No, sono qua. Ah, sei lì nato. Sì, sei a Monaco di Baviera o giù di lì? Sì. Ecco, meno male, Edoardo. Diceva, forse non lo troviamo, forse non c'è. E c'era anche Giorgio De Luca che è lì pronto a prendere le vostre telefonate con più telefoni in mano, e quindi ce l'abbiamo fatta. Edoardo, allora, Edoardo è giornalista, scrittore, imprenditore, presidente di Tech Edge, che è una società attiva a livello internazionale nelle tecnologie a supporto dei processi aziendali. Una roba detta così sembra complicatissima, ma chi è nel campo già, insomma, può capire di cosa si tratta. Un tipo molto tecnologico, Edoardo Narduzzi, ma scrive anche, abbiamo detto, scrittore giornalista, e ha scritto "Ciascuno per sé vivere senza welfare", che un pochino mi preoccupa, diciamo così, però probabilmente chissà se questo sarà il futuro o no. Pubblicato da Marsilio. Però prima di addentrarci brevemente nel tuo libro, Edoardo, ti volevo chiedere, proprio così a flash, una notizia di cui poi ti piacerebbe parlare di questa settimana. Beh, sicuramente ha tenuto banco tutta la polemica, diciamo, su la pillola abortiva. Questo è un argomento molto interessante. Sì. Allora, di questo parliamo dal punto di vista più finanziario. Mi sembra la notizia della settimana sia l'avanzamento dei deficit del rapporto deficit-PIL dei paesi europei, e dal punto di vista tecnologico il lancio dell'iPad, che questa settimana è nei negozi americani, insomma, l'ultimo oggetto di Steve Jobs. Bene, ti muovi ad ampio raggio. Allora, tra pochissimo andiamo un po' su tutte queste notizie, però soffermiamoci un po' sul tuo libro, no? Che in qualche modo Non ho capito bene se un auspicio o una previsione, ma tu vuoi dire che insomma piano piano qui bisogna che ognuno faccia da sé, il welfare diciamo è un po' obsoleto come sistema rispetto a quello degli ammortizzatori sociali, dello stato sociale che aiuta, che interviene eccetera, perché man mano la crisi ci ha insegnato che siamo in tempi diversi e che le cose, i sistemi si devono adeguare alle persone. Così Edoardo? È così, nel senso che il welfare è un'invenzione formidabile, soprattutto degli europei, nella seconda metà del Novecento, è servito per completare quella che era la gestione della rivoluzione industriale, diciamo dell'economia dei manufatti o dell'economia degli atomi, come la chiama qualcuno, cioè l'effetto lungo dell'industrializzazione, che altrimenti, avendo provocato una vera e propria rivoluzione sociale, sarebbe stata difficilmente gestibile, una stagione molto ideologica in termini politici. Oggi che viviamo in un universo diciamo completamente diverso, perché è intervenuta la globalizzazione, perché la finanza è forte, perché la tecnologia ci cambia la vita e rende tutto più facile, meno costoso, universale, in cicli sempre più corti, in questo scenario qua pensare che lo Stato possa conservare il monopolio pubblico dell'organizzazione dell'offerta di interi pezzi dell'economia e francamente che lo possa fare in maniera efficiente, non essendoci più le basi fiscali che possono finanziare questo tipo di monopolio, è oggettivamente un po' difficile da presumere che possa rimanere tutto invariato nel corso del XXI secolo. Però Edoardo, mi viene in mente, no, della settimana scorsa, il varo della riforma sanitaria negli Stati Uniti, che non è ai nostri livelli, è una cosa un po' che vuole avvicinarsi ma ancora molto lontana. Allora questo non va in controtendenza rispetto a questo che dici? Il varo della riforma di Obama va sicuramente in controtendenza rispetto a quello che dico, anche se è una riforma che pensa di poter offrire tra qualche anno, perché credo che la riforma sanitaria americana entrerà effettivamente a regime nel 2014-2015. Sì, tra un po', sì. Tra qualche anno, di poter offrire una copertura universale a chi non l'ha. E di poter ridurre il costo diciamo sanitario legato alla sola assicurazione. Negli Stati Uniti in realtà la situazione è un po' più complicata, perché in effetti anche per una serie di politiche fiscali fatte negli Stati Uniti negli ultimi decenni, oggettivamente si può dimostrare che c'è un eccesso di spesa assicurativa per la sanità, e cioè c'è una convenienza solo assicurarsi, perché poi alla fine pagano i contribuenti, e quindi hanno creato diciamo una distorsione da welfare attraverso le polizze assicurative private. Indubbiamente comunque Obama va in una direzione opposta rispetto a quello che dico io. È certo che l'epicentro del terremoto sarà sicuramente il welfare europeo, che è quello più generoso, più articolato e anche più costoso, anche perché l'Europa, ahimè, non ha il 4-5% di crescita del PIL che gli americani riescono ad avere. E quindi se spende un po' di più Obama ha anche un po' più di crescita economica e anche una demografia più favorevole rispetto alla nostra. Noi abbiamo meno PIL che cresce, quindi meno reddito e ricchezza da impiegare per finanziare welfare, una demografia diciamo asimmetrica verso coloro che spendono per beneficiare del welfare e a svantaggio di coloro che il welfare dovrebbero finanziarlo, per di più con dei salari medi di coloro che dovrebbero finanziare welfare diciamo molto più bassi di quelli americani. Bene, allora intanto abbiamo parlato quindi in parte, in sintesi del concetto di fondo del libro di Edoardo Narduzzi, ci ha detto un po' quali potrebbero essere le notizie che vuole approfondire a partire dalla polemica, l'unica polemica sulla pillola abortiva, però intanto sapete a questo punto abbiamo sempre un collegamento extraplanetario. Riflessioni da Marte. Sapete che quassù da Marte ho cercato talvolta di darvi in anteprima planetaria delle buone notizie, ma è vero che le good news, come va di moda chiamarle adesso, laggiù sulla Terra, a dire il vero, scarseggiano sempre più. E difatti, mi perdonerete se sto per darvi una notizia esiziale, direi funesta, terribile, insomma, l'Italia non è sull'orlo del baratro. C'è già caduta con tutti i capelli. Ma come direte voi, eppure la situazione non sembrava così irrecuperabile. E invece sì. Se il reddito pro capite di una nazione dà la misura di quanto quella nazione sia, per livello economico, più vicina alla Germania oppure più vicina alla Guinea-Bissau, ebbene l'Italia è più vicina alla Guinea-Bissau, eppure anche al Botswana. I dati forniti dal Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia del resto parlano chiaro. Attenzione, la metà dei contribuenti in Italia dichiara fino a 15.000 euro l'anno. La metà dei contribuenti italiani. Insomma, un paese poverissimo, direi sul lastrico, anche se l'apparenza evidentemente inganna. Ecco perché, come già vi spiegai una volta qui da Marte, perché con tanti problemi, no, con tante preoccupazioni, in Italia c'è tanto bisogno di evasione, anzi di maxi evasione. Ma c'è chi orgogliosamente non si arrende e si rimbocca le maniche con la tipica creatività italica. No, è il caso di due coscienziosi mariti italiani, con prole al seguito, che per sbarcare il lunario hanno avuto un'idea geniale, direi, e hanno detto alle loro mogli: sai che c'è? Da domani tu ti prostituisci. Ma la straordinaria poetica creatività dei due mariti siciliani si è dispiegata soprattutto nell'annuncio messo sul giornale per rendere più appetibili, giustamente, ai clienti le loro adorate mogliettine. Sentite un po' che cosa hanno scritto. AAA nuovissima palermitana riceve. Peccato che leggendo si sono dimenticati di specificare la cilindrata. Ma insomma, spesso chi ha i denti non ha il pane, chi ha il pane non ha i denti. Il peggio sembra comunque che sia non avere né l'uno né l'altro. Ma questo per dirvi che è storia di questi giorni, no? Di un autotrasportatore di 31 anni, vicino a Settimo Torinese, che ha comprato un gratta e vinci, ma non conoscendo il regolamento, dopo aver grattato, ha pensato che fosse carta straccia e l'ha irrimediabilmente gettato. Non si è accorto che valeva quasi 2 milioni di euro. Questo, tra le altre cose, dimostra che in Italia non è che si ignorino le regole, quanto piuttosto i regolamenti, evidentemente. Nel frattempo, gli umani di tutto il globo, in particolare quelli con materia grigia, s'affannano in mille straordinarie ricerche scientifiche. È stato scoperto, per esempio, in questi giorni che anche le ostriche, nel loro piccolo, sbadigliano. Se si mettono le dita nel naso, credo lo scopriranno invece tra qualche anno di alacri studi. Ma c'è anche chi cerca la particella di Dio per comprendere, ovviamente, le origini dell'universo. In pratica, gli umani non smettono mai di chiedersi da dove veniamo. Ma coi tempi che corrono, sarebbe davvero opportuno soprattutto chiedersi ma dove andiamo. E tu mi vieni a dire che l'uomo muore lontano dalla vita, lontano dal dolore, e in questa quasi indifferenza non è più capace di ritrovare il suo pianeta fatto di aria e luce. Ritorniamo qui sul nostro pianeta, allora, e ci sono già Manuela da Cuneo, Edoardo da Como, Alberto dalla provincia di Cuneo oggi, come dove ha fatto il militare Totò, evidentemente, diciamo, è in prima fila. Edoardo Narduzzi, prima di dare spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, sempre al numero verde 800 24 00 24, quindi allora vuoi dire un po' la tua su questa polemica che c'è stata sulla RU486, cioè la pillola abortiva che arriva ormai in Italia, può essere commercializzata, l'autorizzata l'AIFA, l'agenzia del farmaco in Italia, così come il Ministero della Salute, con delle regole, però subito i due ministri nuovi, presidenti di regione, Zaia e Cota, hanno detto che loro assolutamente le volevano bloccare sia in Veneto che in Piemonte. Però poi è intervenuto anche il ministro Fazio della Salute, ha detto le regole ci sono, che se le leggano, e quindi insomma hanno fatto un po' un passo indietro. Che ne pensi tu di quello che è successo e cosa ne pensi dell'argomento, Edoardo? Allora, io penso che quello che è successo è estremamente interessante dal punto di vista di lettura politica, del cambiamento, diciamo, dello scenario politico italiano. Siccome da tre mesi a questa parte, nei miei interventi giornalistici, provo a spiegare perché la Lega, come poi è successo, avrebbe dilagato e avrebbe anche vinto il Piemonte, è chiaro che oggi la Lega è diventato, su tutti gli argomenti, anche su quelli nei quali finora non si esprimeva, come ad esempio la pillola antiabortiva, perché era etichettata come un partito subalpino di gente, diciamo, poco evoluta e poco educata, e quindi non era titolata a intervenire su questi argomenti. Oggi la Lega mette il piede nel piatto su tutti gli argomenti, anche quelli che finora non ha avvicinato, e quando lo fa in maniera dirompente nel quadro nazionale, perché è diventata una forza che ha la classe di governo anche a livello territoriale oltre che nazionale. E questo è interessante come fenomeno, perché un partito localistico diciamo che sono 25, almeno 25 anni che cerca di crearsi un consenso da poter intervenire a pieno titolo su tutti gli argomenti del dibattito nazionale, finalmente è arrivato a completare la sua strategia. Ma quello che ti chiedo, quello che ti chiedo, Edoardo, ma il primo punto programmatico una volta eletti a Presidente delle Regioni deve essere quello, la RU486, che poi le regole già sono state stabilite, esiste una legge, questo crea consenso secondo te? No, ma secondo me per loro è una scusa magnifica per poter dimostrare che ormai la gerarchia delle leggi, anche se abbiamo ancora una Costituzione che la fissa, è di fatto quella scritta, sulla carta quella scritta nella Costituzione, ma di fatto quella che poi la dialettica politica con la Lega, che la condizionerà sempre di più, comincia a formare nel dibattito quotidiano della politica, e cioè è un modo con il quale i leghisti cominciano a dire: guardate che il federalismo c'è già di fatto, non solamente a livello fiscale o sugli argomenti di cui si parla sempre, ma anche sugli argomenti più strettamente sociali, e cioè il Parlamento nazionale può anche decidere di legiferare sulla pillola antiabortiva, ma quando poi si arriva all'applicazione sul territorio dove noi siamo maggioranza relativa, queste cose qua le dovete comunque sempre discutere con noi, anche con noi. E questo secondo me è un fenomeno politicamente innovativo nello scenario italiano, perché non abbiamo più partiti territoriali minimi, ma partiti che governano importanti regioni e che anche su questi interventi legislativi, erga omnes, non accettano più la legislazione top down del Parlamento nazionale in silenzio. E quindi se c'è una dialettica federalista su ogni argomento che è cominciata e che dobbiamo abituarci con la quale dobbiamo abituarci a convivere per i prossimi anni. Bene, ci lasciamo brevemente con Edoardo Narduzzi, e poi ci sono gli ascoltatori e le ascoltatrici al numero verde 800 24 00 24. Prima di lanciare la viabilità chiedo solo a Manuela da Cuneo: dimmi il titolo della tua notizia e poi torniamo insieme. Sì, buongiorno. Io volevo parlare dell'articolo di Massimo Fini, però ora che ho sentito l'ospite, in effetti mi è anche venuta un'idea sulle cose che ha detto lui, visto che io sono piemontese. Tienila in caldo che ne parliamo tra pochissimo. Ciao. Non ci sono più le mezze stagioni. A dire oggi, poi con questo tempo grigissimo che c'è qui al nord, a Milano, non so voi, poi sentiremo se lo acchiappiamo il colonnello Giuliacci, se non è già verso qualche meta pasquale, ecco, magari anche con voi, insieme a voi. Invece mi pare di capire, intanto vi ricordo Roberta Giordano con voi, come sempre, fino alle 15 per fare insieme un bilancio dei fatti della settimana, e per le vostre libere opinioni al numero verde 800 24 0024. Poi mio opinionista estemporaneo di oggi è Edoardo Narduzzi, giornalista, scrittore, imprenditore, che ha scritto per Marsilio "Ciascuno per sé, vivere senza welfare". Ma eravamo rimasti a Manuela da Cuneo, che hai detto che avevi una tua notizia in caldo, però ti piaceva anche lo spunto che aveva gettato Edoardo, quello sulla pillola RU486, oppure sulla questione sulla questione soprattutto di politica. Soprattutto di questo neopresidente, che a me personalmente non piace, io non l'ho votato chiaramente, e subito Cota in Piemonte mi ha dato la conferma di non essere comunque una persona così fidata, ma in realtà adesso che ho ascoltato l'ospite in effetti mi ha chiarito. Questo è una causa effetto, il fatto che hanno votato la Lega, perché comunque molti forse l'hanno fatto per la loro politica così a livello generale, però adesso che ce l'abbiamo proprio qua in Piemonte, loro agiscono anche su altre cose e che magari noi non siamo molto interessati o comunque non possiamo condividere, cose più personali, per esempio la pillola, o come ho letto ieri sulla Repubblica addirittura che nel 2011, lei sa che c'è l'anniversario del Regno Unito, sì, e la Lega ha già detto: noi non spenderemo una lira per questo. Non tutti sono d'accordo, magari anche gli stessi leghisti, però questo non potevano saperlo prima, lo sappiamo adesso, perché adesso loro scoprono le loro vere carte. Cioè dici nel programma, durante la campagna elettorale, dici non l'hanno detto, e come la pillola perlomeno che l'ho seguito abbastanza, io ho cercato di seguire, che poi mi interessa, mi appassiona, ma io non ho mai sentito una cosa del genere. Adesso leggo il giornale, paf, mi si dicono: mai visto cosa fanno? E credo, l'avete votato, adesso loro sono i pieni poteri, giustamente fanno quello per il quale credono. Per cui, Manuela, poi dicevi che invece, ecco, che invece tu avevi chiamato per un articolo del giornalista Massimo Fini. Mazzini, perché l'ho letto la prima volta e mi sono chiaramente mi ha fatto tanto piacere i suoi commenti eccetera, però poi dopo rileggendolo effettivamente su certe cose posso dire che non abbia poi tutti i torti, perché è vero che la donna si è in qualche modo è diventata più maschile, perché comunque ha dovuto mettersi imporsi nel lavoro e magari ha cambiato modo di essere in qualche modo, esattamente come l'uomo si può dire che per certi casi è diventato anche molto femminile, però a noi non è che disturba questa cosa, invece pare che agli uomini questa cosa sia fastidio. Certo. Io credo che sia proprio un cambiamento dei tempi, come lei ha detto all'inizio, cioè ricordato certe cose cambiano, è vero, anche il ruolo a cui era totalmente abbinata la donna sta in qualche modo cambiando, perché anche se noi forse prima eravamo tutte dolci e tutte gentili, sotto sotto comunque avevamo già questo carattere forte. Beh, di portare avanti una famiglia, di allevare dei figli e tutto un po'. Adesso siamo più libere magari di dimostrarlo, forse sbagliando, io non sto dicendo che Beh, sia giusto. L'importante, Emanuele, è avere la libertà di essere quello che si è naturalmente nella convivenza civile, di potersi esprimere, di poter avere delle aspettative anche per quanto riguarda per esempio il mondo del lavoro, il corso della propria vita, senza che questo dipenda da chi dà dei precetti, perché tu sei maschio, perché tu sei femmina, perché tu sei nero, tu sei bianco, no? L'importante è che non ci sia sempre una parte che decide che cosa devono fare tutti, soprattutto l'altra. Manuela, ti ringrazio e adesso invece vorrei sentire Edoardo da Como. Pronto? Edoardo, eccoci qua. Eccoci qua, buongiorno. Edoardo, tu sei nel pieno di questo giallo di questa povera ragazza che è stata trovata nel lago di Como, se non sbaglio? No, questi giorni ero assente da casa, quindi ho seguito poco. No, hai seguito poco. Vabbè, insomma, comunque la tua notizia immagino non sia questa. Non è quella. No. Allora, secondo me è decisamente un grande segno che i tempi cambiano. Una notizia che non ha fatto notizia è stata riportata come trafiletto. Sì. Che il Cardinal Martini ha suggerito come possibile rimedio a questi scandali di pedofilia nel clero cattolico di rivedere il discorso del celibato. Mm. Eccolo, sì, sì, Cardinal Martini, ex arcivescovo di Milano, certo. Sì, ma è un cardinale che come gerarchia ormai non è più, diciamo, nelle sfere alte, ma come cultura è un esponente di alto livello della cultura cattolica. Mm. Se lui dice che va rivisto quel discorso, mi sembra un segno che i tempi cambiano, perché non mi posso immaginare solo pochi anni fa nessuno che avesse osato parlare in questi termini, insomma. Guarda, no, questo è molto interessante, infatti, Edoardo. Io l'ho visto e devo dire che il primo sui giornali, almeno italiani, quelli che ho guardato io, a proporre una cosa del genere, a mettere perlomeno in discussione il celibato, già lo fa da anni in realtà Hans Küng, che è teologo ribelle, sai, certo, da tempo, certo, ecco. Certo, e poi anche certo. Il Cardinal Martini, anche se per esempio Lucetta Scaraffi, la giornalista comunque vicina anche alle gerarchie ecclesiastiche, ha detto ma non so se è proprio l'idea più opportuna, perché in realtà poi una buona parte di pedofilia, quindi di abusi sessuali sui minori, avviene in famiglia, dove invece questi uomini potrebbero avere la loro libertà di, non dico per forza con le povere mogli, ma anche come, in giro. Come in famiglia? Io parlo di preti cattolici. No, ho capito, però lei dice, Lucetta Scaraffi diceva, in realtà non credo che sia per forza la pedofilia dovuta al fatto di sfogarsi per questi uomini che sono repressi perché devono mantenere la castità a vita, perché in realtà succede anche nelle famiglie che ci sono gli abusi sui minori, quando questi uomini sono laici, quelli che lo fanno, e quindi potrebbero essere liberi in realtà di avere rapporti sessuali in giro, eppure lo fanno lo stesso. Capisci, Edoardo? Metteva in che... Io non lo so quale sia la questione giusta, però è interessante come spunto, come stimolo, sicuramente darà modo almeno di rifletterci ulteriormente su questa storia del celibato, poi non so come andrà a finire. Edoardo Narduzzi, tu cosa ne pensi? Dell'ultima notizia o del Cardinal Martini? Di Cardinal Martini, sì, di questa proposta, di questa riflessione sua da parte di... Insomma, io penso che... È difficilmente arginabile quello che sta emergendo, perché viviamo in una società nella quale la comunicazione è ipertrasparente e credo che la segregazione sessuale degli uomini di chiesa rispetto al resto della società, con l'avanzare di tutte queste tecnologie di social networking spinte che c'entrano, che ormai ce l'abbiamo, diciamo, le indossiamo, diventerà sempre, diciamo, meno perimetrabile, nel senso che l'interazione che abbiamo è talmente continua con il resto del mondo che l'allungamento della vita si è talmente consolidato che immaginare che queste persone riescano a vivere senza nessuna tentazione, senza nessuna pulsione, è poco credibile. 40, 50, 60 anni diventa sempre più faticoso per loro, per cui se la Chiesa trovasse una forma di gestione, diciamo, evolutiva di questa condizione, probabilmente avrebbe meno difficoltà. Meno problemi di questo tipo. Difendersi sui giornali e sui media. Sentiamo sempre il numero verde 800 24 00 24 per commentare i fatti della settimana. Insieme Alberto dalla provincia di Cuneo. Carissima Roberta. Carissimo buongiorno. Alberto, buongiorno. Dunque, io di notizie ce ne sono tante, ma vorrei approfittare della presenza di Edoardo Narduzzi. Sì. Mi pare si chiami, non sì. lo conoscevo prima, molto piacere di conoscerlo oggi. A proposito del problema del welfare, che ha colpito ciascuno per sé. Il titolo del suo libro, sì. Sì, ecco, io sono assolutamente dell'idea che ci debba essere una copertura complessiva, nazionale, se vogliamo, insomma, Obama lo sta dimostrando con quello che propone e quello che è riuscito ad ottenere. Però, a proposito del ciascuno per sé, mi chiedo quale può essere il limite legato alla propria responsabilità. Mi spiego. Parlando di welfare, soprattutto per quanto riguarda la copertura, l'assistenza sanitaria, per quale ragione si deve arrivare ad una copertura sanitaria totale anche a chi ha un comportamento non corretto? Quindi chi fuma, chi beve, chi mangia troppo, queste cose qui? I fumatori in particolare, mettere prima in classifica. Voglio dire, lo posso coprire per tutte le patologie, tranne per quelle relative all'apparato respiratorio o cardiocircolatorio. E così l'obeso non patologico non lo posso certamente curare per il diabete in modo così libero, tranquillo. Posso capire che questa sia un'indicazione provocatoria. Ricordo di aver sentito tempo fa qualcuno, mi pare nel nord Europa, qualche politico che avesse proposto questo e fosse stato sommerso dalle ire dei colleghi. Però francamente non mi sembra una cosa così fuori luogo. Ecco, mi piacerebbe sentire dal giornalista Narduzzi che cosa ne pensa. Alberto, ti ringrazio, anche se Edoardo, perdonami, siamo brevi su questa cosa perché non è proprio una notizia della settimana, è l'argomento molto interessante del tuo libro, ma poi lo scopo, lo sai, non ci sono più le mezze stagioni, è un altro, è andare sui fatti della settimana. Un breve commento quindi su questo che diceva Alberto. Edoardo. No, Roberta, brevissimo, un commento su quello che diceva Alberto. Secondo me lui ha perfettamente ragione, il fatto che noi offriamo un welfare, nel caso della sanità, universale, a prescindere dalla condotta degli individui, a prescindere, diciamo, da quello che hanno fatto, che potrebbero fare, è tutto legato al passato, nel senso a un passato nel quale le informazioni erano costose, la loro gestione, la loro acquisizione. Oggi noi potremmo profilare ciascun individuo rispetto alla sua condotta di vita, diciamo, costruirgli delle politiche sanitarie adeguate rispetto a quello che lui fa e che sarebbero anche molto più, diciamo, oneste nei confronti di coloro che attraverso la loro base imponibile dovrebbero finanziare fiscalmente anche, diciamo, le condotte non perfettamente corrette di chi non così si fa mantenere dagli altri, insomma. Sentiamo Rosa Maria da Genova invece, sempre al numero verde 800 24 00 24, per sapere che cos'è, Rosa Maria, la tua notizia della settimana, cosa ti ha colpita? Maria da Genova, e qui ne sono successe sempre di tutti i colori. Dunque io dico, per prima di cosa, di lasciarci noi donne in pace, cioè la pillola, ma cosa c'entra nello Stato, nella Chiesa? Ci sono i medici che possono controllare, dirci quello che possiamo fare e basta. E anche per l'interruzione di gravidanza bisogna andare in ospedale. Qui è un medico poverino che avrà fatto un'interruzione a una signora che non voleva andare in ospedale perché non sapessero tutti, che si è suicidato. Ora, è mai possibile che dobbiamo arrivare a questi punti? Lasciateci in pace, noi e i dottori, e basta. Chiesa e Stato fuori. Grazie. Grazie a te Rosa Maria, una dichiarazione così con grande pathos di Rosa Maria di indipendenza femminile, almeno su questioni che riguardano strettamente da sempre direttamente il corpo e la vita delle donne. Tra pochissimo la pausa, sarei tentata di farvi, come a volte faccio, l'elenco di tantissime notizie, però intanto diamo spazio anche brevemente, prima della pausa ci sono, credo, che dici Carmelo, un minuto, Marco da Brescia, tu riesci in 52 secondi a dire la tua notizia? Sì, assolutamente sì. Volevo Grazie. Solo fare un breve commento sul discorso del celibato e della pedofilia, sì, dicendo che mi pare senza senso ipotizzare che esista un rapporto di causa ed effetto. Non abbiamo nessuna evidenza di questo, cioè che esista un rapporto di causa ed effetto tra celibato e pedofilia. È stato calcolato dalle associazioni che si occupano di questo problema che si presuma siano pedofili il 4% dei preti. Credo che, ahimè, nella società si vada anche su percentuali più alte. Mi risulta incomprensibile il motivo per cui tutti questi episodi, peraltro di fatti saputi e risaputi da decenni, si concentrino in maniera così tumultuosa adesso e puntino sostanzialmente per lo più contro Papa Benedetto, così come mi risulta incomprensibile che, a fronte per l'appunto di una inesistenza del rapporto causa-effetto, una persona intelligente come il Cardinal Martino, in un momento così delicato come questo, se ne esca dicendo che forse il problema è il celibato. Ecco, mi sembra una cosa, questo non implica che il problema sul celibato non debba essere affrontato, però ecco, mi sembra una maniera molto sorprendente e strana di affrontare questo problema. Ma può essere uno spunto, una possibilità di riflessione, un cercare di girare il problema da una parte e dall'altra, guardarlo da diverse angolazioni. Effettivamente non si sa bene che cosa possa essere la soluzione, la strada più giusta, però intanto cominciare a mettere sul campo così un po' di ipotesi, un po' di pensieri. Grazie anche a Marco da Brescia, così siamo riusciti a arrivare a questa pausa, a sentire anche un altro ascoltatore. Poi ci ritroviamo con Edoardo Narduzzi e con i vostri commenti ai fatti della settimana, numero verde che è sempre quello 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Eccomi qua, Roberta Giordano, sempre con voi. Il mio opinionista estemporaneo di oggi è Edoardo Narduzzi, scrittore, giornalista, imprenditore che ha scritto Ciascuno per sé, vivere senza welfare. Un po' ne stavamo discutendo prima con un ascoltatore, però adesso ritorniamo sui fatti della settimana, sulle tante notizie. Fra l'altro, leggevo con un certo piacere dei risultati di una ricerca americana, no? La quale dice che il gossip sta cadendo un po' in disgrazia. A me non sembra, ma comunque cioè, il gossip cade un po' in disgrazia perché non rende felici, mentre lo scambio di idee più profonde, pensieri e riflessioni un po' più impegnative, questo sì, dà la felicità, perché sembra quasi di scambiarsi vita più concretamente, più profondamente. E dice, il silenzio magari sarà anche d'oro, ma non è alleato della felicità, aggiunge questa cosa. Conversare di più, indipendentemente dai contenuti, è associato a un maggior senso di felicità tra le persone coinvolte in questo scambio di idee. Quindi più felici che qui, e non ci sono più le mezze stagioni, io credo non si possa essere con tutto questo scambio fervido di idee. Dunque, ci eravamo lasciati appunto con alcuni argomenti, con gli ascoltatori. C'era, mi aveva colpito anche questa telefonata di Anna Maria da Genova, che parlava insomma del desiderio finalmente, definitivamente, di autodeterminazione femminile. Allora sono andata a riprendere una dichiarazione che ha fatto in questi giorni, mi pare proprio ieri, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, in occasione delle celebrazioni della Passione del Signore, eccetera, e dice, ha detto proprio ieri, tra le violenze particolarmente odiose, tra le imposizioni, eccetera, ci sono quelle verso e contro le donne, che avvengono spesso all'interno delle mura domestiche, comunque nella società, dice, ed è innescata tutta questa cosa, soprattutto, ha detto padre Cantalamessa, dall'insicurezza e dalla vigliaccheria dei maschi. E questa è la sua denuncia, e ha pertanto esortato gli uomini in senso di maschi a un mea culpa collettivo. Giovanni Paolo II ha spiegato, ha inaugurato la pratica delle richieste di massa di perdono, e dice una di esse, di pratica di perdono tra le più giuste e necessarie, dice il padre Cantalamessa, è il perdono che una metà dell'umanità deve chiedere all'altra metà, e cioè agli uomini e alle donne. A me è piaciuta molto questa cosa, poi detta da un sacerdote per l'appunto. Ma ritorniamo sui fatti della settimana con Andrea da Firenze. Ciao. Buongiorno, ciao Andrea. Pronto? Ecco, siamo ciao. Qua. Sì. Senti, allora, a Firenze, posso sapere a Firenze che tempo c'è? Ma ora è variabile. Abbiamo paura dell'acqua, ma speriamo che non piova. Qui già poi plumbe. Dunque, no, intervenire sì. Relativamente a una notizia che tra le tante ormai è nata, una che mi ha colpito abbastanza, sì. Le scandescenze dell'architetto Fuscas al ristorante a Roma. Con Bertolaso, se volete. Sì, nei confronti di Bertolaso, però per il tipo di escandescenze che poi ha dato nei confronti di tutti quelli che erano lì al ristorante mettendosi a urlare, a dare dei fascisti, mi ha colpito per la violenza. Diciamo che è un po' fumantino Fuxas in genere. Sì, un po'. Beh sì, però tenendo conto che anche se l'Italia, tutto a caso, fosse spezzata a metà fra centrodestra e centrosinistra, di sicuro dare le scandescenze e dare di fascista a tutti, visto che lo volevano obiettire per il fatto che dava appunto le scandescenze, non mi sembra molto bello. Mi ha colpito perché, non so, se qualcuno oggigiorno ritiene di poter, diciamo così, esprimersi nella maniera più violenta possibile, così impunemente, io non so lei, ma io penso che avrei un po' di timore a esprimermi in un luogo pubblico in una certa maniera, insomma, mediamente. No, io dico che è brutto, indelicato e che è meglio evitare, sinceramente, che uno abbia ragione, magari esporre le proprie ragioni, i propri motivi con fermezza e con convinzione e incisività, però senza si dare in escandescenza, su questo siamo d'accordo. Poi non so, non ero lì presente, quindi non so se ci siano state cosa sia successo effettivamente, però se in genere si può evitare, tanto meglio. Andrea? Sì, secondo le, diciamo così, racconto dei presenti al ristorante, alla trasmissione del suo collega Cosciani, appunto erano fuori delle cose che me l'hanno lasciato effettivamente sbigottito, anche perché l'immagine che avevo di quest'uomo che interveniva sempre alla trasmissione era abbastanza pacata, ecco. Grazie a te Andrea, grazie molte. Edoardo Narduzzi, adesso prima di passare alle altre telefonate, sempre al numero verde 800 24 00 24, fra i fatti della settimana e quindi anche pezzi giornalistici, editoriali eccetera, mi ha colpito in particolar modo questo di Piero Stellino di mercoledì scorso sul Corriere, il quale difende il diritto di non andare a votare, cioè dice l'astensione è modernità, no? Un po' in controtendenza con quanto si è detto da sempre, che è un diritto dovere il voto. E adesso prendo dei pezzi dal suo editoriale. Dice che prima questa, finora insomma, è stata una specie di imposizione un po' autoritaria, un po' dello Stato dominatore, quasi, dice, ripresa da un'impostazione di matrice totalitaria, sia del fascismo che delle democrazie popolari dell'Est. Chi non andava a votare era bollato, addirittura burocraticamente schedato, come evasore di un dovere civico. E dice il non voto è la manifestazione in realtà dell'emancipazione della società civile. Personalmente, scrive Ostellino, mi auguro che d'ora in poi gli italiani vadano a votare o si astengano, ciascuno secondo la propria personale valutazione della situazione sottoposta al suo giudizio, dei propri interessi, dei propri principi e conseguentemente del proprio stato d'animo, e non più perché psicologicamente, politicamente irregimentati come pecore. Che ne pensi? No, penso che ha perfettamente ragione, nel senso che ci sono due considerazioni da fare, Roberta. La prima è che l'obbligo di votare è tipico delle democrazie giovani, che hanno paura che ci sia disaffezione o che il non voto venga interpretato come, diciamo, una fidelizzazione monarchica di quello che c'era prima della Repubblica, insomma, della democrazia. E quindi si è arrivati in molte di queste giovani democrazie anche a prevederlo per legge, l'obbligo di votare, altrimenti veniva segnato, scritto da qualche parte. Quindi questo è un aspetto sicuramente che, diventando più mature le democrazie, lo si può decidere, dici, tranquillamente, personalmente, senza avere questo obbligo quasi morale, secondo te? Sì, secondo me sì. Non diventa più una discriminante, nel senso. E poi c'è l'altro aspetto, è che ormai si vota in successione, visto che citi sempre il libro che ho appena scritto, e ti ringrazio, ogni volta che apriamo ciascuno per sé, in un capitolo riporto l'orgia di referendum che c'è stato in California negli ultimi 25 anni, adesso anche sulla marijuana mi sembra tra poco, non so. Nel senso, lì si capisce che c'è una democrazia ormai in presa diretta, perché accanto alla legislazione del Parlamento californiano c'è poi una legislazione referendaria, diciamo, continua. e che non si può pretendere che poi se c'è un referendum ogni mese tutti debbano votare, cioè si va a votare quando si pensa si sente giusto volersi esprimere, essere coinvolti, insomma. E quindi nell'evoluzione della democrazia c'è anche questo. Edoardo, dimmi una cosa, poi ci saranno Giovanni dalla provincia di Milano e gli altri ascoltatori. Tu sei tifoso di calcio? Pochissimo, e della Roma, che dopo molti anni sta cercando di avvicinarsi allo scudetto. Però ti dico che, visto che hanno fatto, tra le notizie di questa settimana, Mario Balotelli ha fatto pace, insomma, sembra con Mourinho, per cui sarà titolare stasera contro il Bologna, sarà in campo dal primo minuto a San Siro nella sfida contro il Bologna, e dopo le 5 esclusioni consecutive decise per motivi disciplinari, insomma, sembra tornata la pace. Allora ne approfitto brevemente, anche se qui ci vogliono come sempre le bombole d'ossigeno, di fare una brevissima sintesi delle migliaia di notizie della settimana. Abbiamo parlato delle elezioni amministrative con tutto il lo strascico, i risultati eccetera eccetera, delle polemiche sulla pillola abortiva di cui alcuni ascoltatori, lo stesso Narduzzi, hanno parlato, e poi del disegno di legge sul lavoro che Napolitano non ha firmato perché ha detto attenzione, mancano alcune garanzie, ridefiniamolo un po'. Poi la polemica sul direttore del TG1 Minzolini, che ha cambiato i conduttori, ha levato alcuni volti noti tra cui Tiziana Ferrario, qualcuno ha gridato all'epurazione, lui dice no, è perché c'è bisogno di volti nuovi. L'attentato, il doppio attentato a Mosca con queste ragazze, una 17enne, la kamikaze, però poi se andate ad approfondire sono ragazze, pensate, era già vedova di un soldato ceceno, questo ci dice che queste povere ragazze già sono spose bambine, tante vengono ripudiate dalle stesse famiglie perché sono state violentate da soldati russi, oppure una volta che sono vedove non le vogliono mantenere, questo quasi diventa un destino adesso di tante giovani, quello di diventare kamikaze perché manco le vogliono più i familiari, non per convinzione personale, anche perché già hanno tanto da perdere nella loro vita, figuriamoci se poi vogliono andare anche a farsi ammazzare. Poi i rapporti sempre tesi tra Stati Uniti e Iran, l'Iran di Ahmadinejad che lancia oggi una nuova sfida, non ci fermerete col nostro programma nucleare eccetera eccetera, il burka, il Belgio è il primo paese in Europa che dice definitivamente no, il burka non si può portare, le donne non possono essere completamente velate nel nostro paese. Poi la crisi economica, l'Istat che a marzo dice che l'inflazione riparte, aumenta la disoccupazione giovanile, pensate che in Italia la disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è del 28,2%, i conti pubblici, lo diceva prima Narduzzi, no, del deficit, rapporto tra deficit e PIL nel 2009 al 5,2%, il fisco, metà dei contribuenti italiani dichiara fino a 15.000 euro, quindi abbiamo detto un paese poverissimo, e poi il rincaro dei prezzi dei carburanti, il prezzo scandalo, titolava ieri il Corriere della Sera, supera 1,4 al litro, in un anno 10 euro in più per fare un pieno, 10 euro in più, e poi il caso Claps che prosegue con le varie cose che si scoprono man mano, ci sono varie altre notizie di politica estera, adesso non sto ad addentrarmi. La Uno Bianca, sapete, no? Il permesso premio a Occhi Pinti, uno degli assassini della Uno Bianca famosa di Bologna, vi ricordate, di un po' di anni fa, degli anni 90, ha avuto un permesso premio per uscire e partecipare ieri alla Via Crucis, con ovviamente grande contrarietà dei familiari delle vittime. Poi al CERN di Ginevra, questo centro di ricerca, cercano di accelerare le particelle per cercare la particella di Dio, questi scontri tra bosoni, cose, una cosa complicata per arrivare all'origine dell'universo. L'addio ad Arigliano, gentiluomo dello swing in televisione, è morto anche Maurizio Mosca, il giornalista sportivo. Ricky Martin, grande cantante, showman portoricano, a 38 anni ha fatto il suo coming out, ha detto sono orgoglioso di essere gay, cioè erano i sospetti, lo si dice basta, lo voglio dire e chi se ne importa. E poi il calcio, novità e nuovi veleni da Calciopoli, e Ballotelli, abbiamo detto che fa pace e quindi stasera sera ci sarà in campo. Allora, Edoardo Narduzzi, tu hai qualcosa sulla quale vorresti, tra tutte queste cose, tornare? Ce lo teniamo in caldo per dopo che abbiamo la viabilità? Ma visto che sì. Eliminiamo il deficit, andiamo sulla disoccupazione giovanile italiana. Che mi sembra una roba grave. Va bene. Sì. Allora, tra poco c'è anche Giovanni della provincia di Milano. Sentiremo dal colonnello Giuliacci che ci dia qualche speranza per domani, per lunedì, insomma, visto che no, dice Carmelo Lauricella, non sembri molto, un po' scorato mi sembra, però lo scopriremo tra poco. 800 24 00 24. Non ci sono più le mezze stagioni. Ecco qui, Roberta Giordano, ancora per circa poco meno di un quarto d'ora, adesso cercheremo di capire, e quindi se avete delle cose che vi sono rimaste lì sui fatti della settimana, non esitate a chiamare il numero verde 800 24 00 24, c'è sempre come mio opinionista estemporaneo, oggi in collegamento dalla Germania c'è Edoardo Narduzzi, scrittore, giornalista, imprenditore che ha scritto per Marsilio "Ciascuno per sé, vivere senza welfare", poi tra poco c'è Giovanni dalla provincia di Milano, però vogliamo capire insomma se almeno per Pasqua uno può godersi un minimo il picnic di Pasquetta. Colonnello Giuliacci. Ciao Roberta. Colonnello, sono qua, ecco. Umido anch'io perché a Milano sta piovendo. Da strizzare non si può che uno quando potrebbe un po' rilassarsi neanche lì. Dacci buone notizie, Colonnello Giuliacci. Ma io mi sforzerò. Sì. Facciamo al contrario. Dov'è che è il bel tempo? Così sì. Si fa prima, dici. In questo momento è bel tempo su tutto il centro-sud, a parte un po' di nuvole sulla Toscana, ma al centro-sud è tempo splendido, temperature gradevoli. E così sarà domani ancora per il sud, non per il centro. Domani ancora bello al sud e ancora lunedì bello al sud, bello sulle regioni di nord-ovest, Piemonte, Liguria, Val d'Aosta, Lombardia, non così per altre regioni d'Italia. Come si vede allora non è che poi sarà una catastrofe generale all'insegna delle piogge. Beh, sì. Ma adesso però bisogna andare verso sud, anche dove piove, no? Purtroppo, no? C'è l'altro rovescio della medaglia. Dove rovesci piove, dappertutto, no? Sì, a proposito di medaglia. Oggi già sta piovendo in questo momento in quasi tutta Lombardia, sul Levante Ligure, sta sfiorando le piogge, sfiorano anche Ponente Ligure, le Alpi occidentali, nevicante su quasi tutte le Alpi centro-occidentali, insomma gran parte del nord Italia, eccetto le Venezie, eccetto l'Emilia Romagna, insomma è a rischio pioggia ancora per oggi. E comunque nuvole sul nord Italia, bello sul centro sud. Domani bello al sud, abbiamo detto. Però pioverà, è la giornata più brutta purtroppo, perché pioverà almeno sul 70% dell'Italia, perché pioverà su tutto, dico tutto, il centro nord, Sardegna compreso, e con nevicate sulle Alpi oltre 1000-1200 metri, forti venti scirocco, insomma una giornata no. Negativa, una giornata no. Lunedì positiva. Lunedì però già positiva, perché voglio dire, già Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, Liguria, quasi tutta la Lombardia col cielo sereno, no? Anche la Sardegna col cielo sereno, dov'è che ci saranno le nuvole soprattutto sulle regioni centrali, sulle regioni adriatiche. Che meraviglia, inseguo la pioggia praticamente. Ecco, però pioverà purtroppo al mattino ancora sulle Venezie e su quasi tutte le regioni centrali, ma poi nel pomeriggio rapido miglioramento, per cui se pensate al barbecue per lunedì fatelo verso le 3-4 del pomeriggio. Ecco, e Sardegna va bene anche al mattino, ma per le altre regioni è meglio aspettare il pomeriggio. Vabbè, per barbecue per merenda, via, ecco. Grazie colonnello, poi dopo non ci addentriamo ulteriormente, ma ci sarà un po' di sole. Ma guarda caso poi il bel tempo arriva quando si torna tra martedì, giovedì, quando ormai potremmo dire ma poteva anche arrivare prima, no? Insomma, è così, anche il tempo ci fa i dispetti, che dobbiamo fare, vivere e anche soffrire. Grazie colonnello Giuliacci, buona Pasqua a te, solare Pasqua a te in ogni caso. Anche a te, ma tanti auguri a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao colonnello. Giovanni dalla provincia di Milano. Ah, buongiorno signora. Senta, no, volevo fare Giovanni, non mi chiamare signora, ti prego. O Roberta o un'altra cosa. Va bene. Sì. No, solo per dire questo, un commento sulla pedofilia e il celibato. Sì. Senz'altro le due cose non sono collegate, questo è chiaro. Però io ritengo che il fatto di non essere capaci di avere, diciamo, un rapporto normale può portare alcuni preti ad avere, a rivolgere le attenzioni sui minori, sui labili, sui deboli. Probabile che qualora fossero sposati, avessero potuto soddisfare le proprie esigenze, questo non sarebbe accaduto. Un po' come che viene nelle carceri praticamente, no? Dove i carcerati rivolgono le attenzioni maggiormente su quei elementi, diciamo, un po' col viso efebo e così via, perché più risembrano, assomigliano alle donne praticamente. Tutto questo. Ho capito. Grazie Giovanni, questa quindi è la tua lettura. Era d'accordo allora evidentemente sulla questione di mutare un po' il fatto, il dogma, diciamo così, se non è proprio dogma, insomma, l'imposizione del celibato. E poi leggevo, insomma, non è una cosa che risale a chissà quanti tempi fa, chissà quale, non ricordo esattamente quando è cominciato, ma non proprio nell'antichità. Edoardo Narduzzi, quindi dicevamo, fra le tante notizie vorresti anche un po' soffermarti sulla questione della disoccupazione giovanile, che abbiamo visto tra i 15 e i 24 anni in Italia del 28,2%, quindi è una percentuale molto alta. Sì Roberto, fammi dire qualcosa su questa notizia, visto che poi facendo l'imprenditore è una, diciamo, è un aspetto dell'anomalia italiana che si vede ormai da troppi anni. Su questa componente, su questa coorte di lavoratori si è scaricata ancora di più la recessione degli ultimi 18 mesi, perché chiaramente noi abbiamo un mercato del lavoro anche con protezioni molto atipiche, diciamo una componente molto tutelata, soprattutto se sono lavoratori pubblici, e una componente molto precarizzata e molto mal pagata. Noi dobbiamo capire che non ci possiamo permettere questa situazione, non ci possiamo permettere di avere meno giovani laureati in un'area monetaria unica come l'euro, meno giovani laureati dei nostri concorrenti, dei nostri cugini dell'euro. Non possiamo abbiamo i pochi laureati che sono pagati il 15, il 20 o il 25% in meno dei loro cugini delle università europee. E che sono pagati con forme di lavoro che sono molto più precarie e che offrono meno opportunità anche occupazionali di realizzazione dei loro cugini europei. Se questo lo proiettiamo generazionalmente nel futuro, noi stiamo condannandoci a tre fenomeni che ci dovrebbero preoccupare. Il primo, non saremo in grado di mantenere il welfare, perché chiaramente questi giovani non potranno pagare la sanità e le pensioni di quelli che oggi hanno tutti i diritti, perché non hanno basi imponibili e redditi che glielo possono permettere. La seconda cosa, che ci condanniamo a non essere competitivi, cioè ci schiacciamo sempre di più su lavori di a basso valore aggiunto e a bassa qualità, e quindi condanniamo anche le nostre università a non essere competitive. E la terza cosa è che complessivamente come società diventiamo meno ricchi e meno capaci di gestire la complessità in cui viviamo. Complessità significa che avremo problemi a far funzionare tutte le nostre infrastrutture tecniche e avremo sempre più problemi a realizzare brevetti, opere dell'ingegno, società innovative. Il lavoro nella società nell'economia opulente, la società contemporanea, si creano nelle società che vivono di simboli, che vivono di prodotti digitali, di prodotti immateriali. Per fare queste cose, per fare questo tipo di realizzazioni c'è bisogno di capitale umano altamente motivato, altamente preparato, altamente, diciamo, formato e molto ben retribuito per poter sfidare la novità e poter rischiare in prima persona. Noi tutto questo non lo facciamo, ne discutiamo pochissimo e ci stiamo condannando alla marginalità nel mondo occidentale. Secondo me è una cosa molto grave che ormai è nelle statistiche, che dovrebbe, quando emerge tra i fatti e tra le notizie della settimana, innescare molto più dibattiti e molto più commenti di quanto purtroppo avviene. Sono d'accordo e tu vai dritto e pervicace su questa strada. Intanto adesso l'appuntamento invece per riflettere a proposito dei fatti della settimana su quella che potrebbe essere una parola particolarmente emblematica, incisiva, no? Abbiamo detto che secondo il fisco la metà degli italiani dichiara 15.000 euro all'anno, e quindi mi viene in mente, come dire, evasione come termine. Che dici, Valeria Della Valle? Potrebbe essere un termine della settimana questo? Ma direi di sì, grandissima attualità. E poi su questa parola ci sono molte cose da dire, la nominiamo continuamente con tanti significati, ma naturalmente non possiamo riflettere ogni volta sui vari significati, che cercherò di riassumere molto velocemente, perché la parola, che naturalmente viene dal latino, ha accumulato su di sé tanti diversi valori. Inizialmente nel 300 significava solo fuga da un luogo, allontanamento, e tanto il significato di fuga da una prigione, è arrivato più tardi, a metà dell'Ottocento, e poi ancora un po' più avanti si è aggiunto quel significato che usiamo ancora oggi, cioè la distrazione da ciò che ci opprime, no? la distensione, lo svago. E poi questa risale ai primi anni del Novecento come uso con questo significato. Dobbiamo arrivare agli anni 60 quando si è parlato di film di evasioni, ma allora il significato col quale lo usiamo tante volte oggi, cioè proprio quello di evasione dal nostro dovere, quello di pagare l'evasione fiscale, di pagare le tasse, quando è arrivato nell'uso comune, nella lingua italiana? E figuriamoci, ne abbiamo la prova solo negli anni 40, nel 1942. Allora domanda, come mai così tardi col significato di mancato pagamento, naturalmente volontario, delle tasse? Come mai? Può sorprendere, ma in realtà dobbiamo pensare che storicamente tutto quello che riguarda le tasse e il loro pagamento è arrivato con grande lentezza in Italia. La legge sul regista è stata promulgata solo nel 1862 e la riforma tributaria di Vanoni, quindi quella che introdusse la dichiarazione annuale dei redditi, è del 1951. Ecco, quindi che la parola evasione con questo senso sia arrivata così tardi, in fondo purtroppo non ci stupisce. Morale, come al solito, ma intanto che una parola sola possa avere tanti significati diversi, tante sfumature diverse, e in aggiunta vorrei dire significati sia positivi sia negativi. Qui andiamo dal significato positivo, cioè del tempo libero, il desiderio di distensione e di svago, al significato negativo, quello al quale appunto alludevamo, cioè allo svagarsi troppo da quelli che invece sono i nostri doveri di cittadini. Grazie Valeria Della Valle, un pozzo di scienza, linguista della Sapienza di Roma. Grazie Valeria, buona Pasqua a te. Buona Pasqua. Ciao Valeria. E chiedo scusa, veramente scusa, però contrizione in questo periodo, per Luca dalla provincia di Milano e gli altri ascoltatori al numero verde che non riesco a sentire, perché vorrei in questi 32 secondi, forse 23, una chiusura di Edoardo Narduzzi, che ha scritto appunto Ciascuno per sé, così lo ricordiamo in chiusura. Come chiudo? Una morale delle notizie della settimana, di quello che pensi, che dice Edoardo? Dico che in due secondi dobbiamo, nonostante usciamo da un lungo periodo non facile, dobbiamo pensare positivo e sempre ricordarci che viviamo, diciamo, nella società migliore che l'uomo sia finora riuscito a concretizzare, e che quindi davanti a noi, se ci mettiamo un po' di impegno, ce la possiamo fare, avere molte cose positive. Grazie Edoardo Narduzzi, e tante cose positive a te. Buona Pasqua a te, da Roberta Giordano, serena Pasqua a tutti.